Silvia Marsiglia di Alghero. Silvia Marsiglia, chi se la va a fare sentire per davvero? Sì, già lo so. Sono buone, ma è meglio non vedere la pasticceria. Tu non riconosci la pasticceria schifosa. Giuseppe, tu hai conosciuto la pesticida Silibatti, quella che c'era lì a Pasqua? Che sfiga, sì, che la cacciavano il vino. Una volta, cioè, noi io stavo facendo la fila per comprare le paste e c'erano questi studenti dei ragionieri che erano alla ricreazione, andavano a prendersi del pasta. E come tutti prima c'era grande dall'azienda, la bella della pasta con i mani, anche lui. Se mi stava a me, io ci ho pigliato di bene e mi dicevo che andava. È stato il medico profumato che ci batte. Poi se non aspetto tutti grassi grassi, le figliuri, tutti grassi. Grassi da fare schifo. Io sono andato anche alle 2 di mattina quando stavano facendo le passate. Aiuto. Già l'ho visto, di solito la faceva Angelo le paste fratello, ma di queste anomalie non ne ho mai notata. Non lo so, non posso dirti nulla, ma lui ha anche mangiato le paste, le faceva belle grandi, belle, le pesche erano dei massicci. Quello è la qualcuno che la fa lo stesso la colazione anche alle 6. Diciamo che no, normale nel senso con la crema al centro tendevo, non all'interno. E le pesche se le vuoi mangiare buone non sai dove le devi comprare. C'è una panetteria di amore, si compra lì, c'è una crema dentro, sono un bombo. Locale però fa questi cornetti, queste frittelle, donna cremata di quella casericcia, casalinga nei dove buona. Cosa la crema non la panna? Tu fatti le magie, ci sono Giuseppe. Non tu. Però non ha riso, vuol dire che o in bagno va bene. Un giorno che sei in verticale, dai, ne fate una più accuratamente. Negativo, non ho ancora mandato niente. Non immagino brutto. E qualcuno diceva, mangiate e basta, finirete tutti all'ospedale. E te lo dico in verticale. Già. Hai. Sì. Allora, mi sto fissando la mia realizzata. Ti ho pagato. Vabbè, a me. Io dico la verità, io dalla tavola delle paste le ho mangiate ed erano sempre buone. Non posso dire il contrario. Le facevano buone, le facevano anche la crema molto buona. Però... No, se parli... non lo so questo, non posso dire niente perché non li ho mai mangiati. Conosciuto l'hai a cosa? A padrino o Giuseppe? A cosa? A Mario? Via Castelletta? Di Mario Corallo? Sì, rubati cere. Cos'è? Quello che facevo anche la fine di Venezia dell'Eta, c'è l'impresa di Campa Sicilia a fianco. Non c'entra nulla, lo chiamo, su di Venezia dell'Eta. Io se l'ho fatto un palazzo. Praticamente c'è la pasticceria, bar, che fai lì, tutto loro. Ciao Franco, qui che c'è quel baracchino. E il padre lo diamo tu. Signor Mario, sì. Ma anche con Gianfranco siamo stati molto amici, e tuttora ci troviamo, eccetera, eccetera. No. Era il padre di Gianfranco. Non modulava. Gianfranco modulava, la sorella, mi sembra, non mi ricordo male. Tutti e due le sorelle. Ma che è morta, mi sembra, vero? Con la chiave del ragazzo che lavorava a casa edificio al corso. Silvana. Non le conosco io, poi le conoscevo tutta una vita. Diciamo, là. Buongiorno, ti racconto una cosa. E poi che fa il gatto Gianfranco. Ecco, io che ci scivo ogni sera con lui. Voi sapete come te. Già lo so. Mi combina una dopo l'altra. Adesso un pochettino si è calmato, ma prima era terribile. Mi inventava di tutti i colori. Fino alla peste. Quando arrivavamo, quando andavamo al bar, ci pigliavamo in barugura a tutte. Pigliava l'ingaiente, chi su... Hai fatto la cotta di Gianfranco, quello che gli hanno fatto cantare e non sono degno di te, e aveva fatto lo scherzo che chiamava la polizia dalla gabinetta e staccasse e l'avevano sgamato. Non ce l'ha raccontata al bar di Gianfranco. Gianfranco, cazzo, dove voglia di ghiatte? È un pazzo. Lui ha detto che praticamente si è divertito un giorno a far intervenire polizia, carabinieri, questo e quella, e a vedere tutti quanti con le sirene. Allora poi si abbiglia il Duguccio, diciamo, ogni adì. Alla fine hanno appostato una macchina e erano pizzicati. Stava telefonando, l'hanno arrestato in questura. Prima gli hanno detto se faceva militare, se aveva fatto il militare, lui sì, era a marcia. Era uno, uno, due, se siamo messi tutti quanti intorno, come passava le cose di una vara di bini? Proprio quando raccontava questi cose, era una abbigliata a barucullo polare. A me, io ero un ragazzino, ero piccolino, non mi divertivo. Mi ha detto, ma vai a dire che guai, vai a dire che ribatte, e io andavo per un zia, e questo, e già fa che si pretende, ne combinavamo un bel, e ha detto, si pretende, e io ero più mascoletto, e cosa vuoi fare? Senta che bei tempi però, non ti chiamano il barucolo a cosa, a Sanremo che andava a rubare, e poi Sanremo. E io andavo a casa di Gianfranco, uscivamo insieme, eravamo molto amici. Ha un carattere un po' permaloso, però è in gamba come ragazzo. Prima sta sempre bene il barucolo, certo. Cioè, ci sentiamo quando voi siamo qua. Ciao Giulia, dai, ci ha fatto piacere la chiacchierata. Quando voi siamo sempre qua, non c'è problema. Buonanotte, ci risentiamo tutta domani alle prossime. Ciao ciao. Capito già, so cagnaro, risate, una gomma cai da tutti i giorni, era una gomma. A voi se qualcuno ti dia appena per che cosa, subito, cioè una brigata da barucolo dopo l'altra. Magari c'è cos'è. Chi lo sa, non lo sa. E io sono diabolico, tu non lo conosci mai così. Già lo conosco bene, non ti preoccupare. Se ne ha tanto mi dirà pure che cosa. È diabolico. Non lo so. Sempre scoggi i temi, fermi. C'è sta Cavaribonti, che ha delle amichissime associazioni. Cavaribonti andava a tutti i baci, no? E di lì a tutti. Sono buono in capo, se lo guardi. Un pazzo. E che divertimento quel periodo. Di notte, quando chiudevano, si andava nei tutti. E da qui Gianfranco tornava, mi proviggiava, entrava nei tre. Ma si divertiva pure qua quando c'era qualcuno che non poteva vedere. O più persone che non poteva vedere. Vegliava, si bucava pure la direttiva, mille volte. Ma dove? Diabolico era, già lo sai. Sbucava fuori. Puntava la cosa e non fa vita più, non fa vita più nessuno, e torri via. Perché da voi si è incazzato. Ma ragazzi, vero? Allora. Non faccio io. Che macchina non va via la radio? Già lo so già. Attaccava a manettone, a più non posso, si abbassava nemmeno di luce. Attaccava. Allora, me l'ha raccontato lui. Una volta dice che c'erano questi qua, non ribudiamo di lì, manco, manca bene, ha pigliato, attaccato, mamma mia. Dopo mi sono accusi di qualche cosa, c'è una parlantina, Già lo so, già. E però Puluse e Gussi è cosa, però è molto intelligente anche. Senza ombra di dubbio. Certo, uno che, anzi, uno che non è intelligente non può essere astuto e così, diciamo, sfoticchiatore. Se sei molto attento a questo tipo, piglia pure un baroncuro. È molto ingannevole come persona, se vuole si frega. Ma no, no, come non lo faceva, mi rispettava, no? Non ha mai fatto cose del genere. Eh sì, ridendo, scherzando, se pidevamo i giù tutti e due, ma finiva lì, non è che a livello di cose grosse, no, non la verità. Andavamo insieme, portavamo da mangiare il cane, latte dolce, perché ce l'avevamo fatto dentro il magazzino. Dovevamo, li portavamo ad addestrarli, c'è un po' di addestramento. Certo. Ma quando voleva, però, cioè, no, anche così era molto brava a camuffare la voce. Devi stare un bel attento. Oh, già, okay. Cazzo, quanto è tardi. Già, ci saluto, dai. Ci sentiamo tutto domani, ciao ciao. Ah, ci sentiamo. Ciao ciao.